Capitolo 2. Sir Humphry Davy, fece Mr. Brooke mentre sorseggiava il brodo col suo sorriso pronto, riallacciandosi all'osservazione di Sir James Chatham, che stava studiando la chimica dell'agricoltura di Davy. Beh, ecco Sir Humphry Davy. Anni fa ho pranzato con lui da Cartwright e anche Wordsworth c'era. Il poeta Wordsworth, dico. A dire il vero, la cosa aveva del singolare. Ero stato a Cambridge quando c'era Wordsworth e non l'avevo mai incontrato e pranzai insieme a lui 20 anni dopo da Cartwright. Beh, quando si dice la stranezza delle cose. Ma c'era Davy, anche lui era un poeta, o come posso dire, Wordsworth era il poeta numero uno e Davy era il poeta numero due. E questo era vero in ogni senso, sapete. Dorothea si sentì un po' più a disagio del consueto. All'inizio del pranzo, siccome il gruppo era ristretto e la stanza silenziosa, queste briciole della gran massa di dottrina di un magistrato caddero in modo troppo chiassoso. Si chiese come un uomo dell'altezza di Mr. Casebone avrebbe sopportato simili banalità. I suoi modi, pensò, erano assai dignitosi. La piega dei suoi occhi grigio ferro e le occhiaie infossate lo facevano somigliare al ritratto di Locke. Aveva la figura smilza e il colorito pallido che si addicevano a uno studioso, diverso quanto mai dal florido tipo inglese e dalle basette rosse rappresentato da Sir James Chatham. «Sto leggendo la chimica dell'agricoltura», disse questo bravo baronetto, «perché ho intenzione di mettermi a dirigere una delle mie fattorie e vedere se non si possa ottenere qualcosa dando un buon esempio di agricoltura ai miei affittuari. Voi approvate la cosa, Miss Brooke?» «Un grosso sbaglio, Chatham», si intromise Mr. Brooke. «Elettrificare la terra e cose del genere, fare un salotto della vostra stalla, non funzionerà. Anche io mi sono dato molto alla scienza una volta, ma mi sono reso conto che non avrebbe funzionato. Vi porta ogni eccesso, non riuscite a lasciar stare niente. No, no, badate che i vostri affittuari non vendano la paglia e cose di questo genere e dategli degli scollatoi, sapete. Ma la vostra agricoltura elaborata non funzionerà. È il tipo più costoso di fischietto che possiate comprare, tanto vale che teniate una muta di cani. Certo, disse Dorothea, è meglio spendere denaro per scoprire come gli uomini possano sfruttare al massimo la terra che dà il loro sostentamento, che tenerci sopra a scorrazzare solo cavalli e cani. Non è un peccato ridursi in povertà conducendo esperimenti per il bene di tutti. Essa parlò con un'energia maggiore di quella che ci si aspettava da una signora così giovane, ma Sir James si era rivolto a lei. Lo faceva per abitudine ed essa aveva spesso pensato che avrebbe potuto indurlo a molte buone azioni quando sarebbe diventato suo cognato. Mr. Casebone volse lo sguardo assai deciso su Dorothea mentre essa parlava e parve osservarla sotto una nuova luce. «Le giovani non se ne intendono di economia, capite?» fece Mr. Brooks ridendo alla volta di Mr. Casebone. «Ricordo quando leggevano tutti Adam Schmidt. Beh, ecco un libro. Assimilai tutte le nuove idee in una volta. La perfettibilità umana, ecco. Ma qualcuno dice che la storia si muove per cicli e questo si può sostenere con buoni argomenti. L'ho sostenuto io stesso. Il fatto è che la ragione umana può portarvi un po' troppo lontano, oltre il limite in effetti. Una volta mi ha portato molto lontano, ma mi sono accorto che non avrebbe funzionato. Mi sono fermato in tempo, ma non troppo precipitosamente. Io sono sempre stato in favore di un po' di teoria. Il pensiero dobbiamo averlo, altrimenti ci troveremmo catapultati indietro nel Medioevo. Ma a proposito di libri, c'è La guerra peninsulare di Southey. La leggo al mattino. Conoscete Southey? No, fece Casebo, incapace di stare al passo col ragionamento impetuoso di Mr. Brooke pensando solo al libro. Al momento ho poco tempo da dedicare a questo genere di letteratura. Ultimamente mi sono consumato gli occhi su dei caratteri antichi. Il fatto è che ho bisogno di qualcuno che mi legga di sera, ma sono molto esigente in fatto di voce e non riesco a sopportare di ascoltare un cattivo lettore. È un peccato, per più di un verso, mi nutro troppo delle fonti interiori, vivo troppo assieme ai morti. La mia mente è qualcosa di simile al fantasma di un antico, che vagola per il mondo e cerca idealmente di costruirlo come era un tempo, nonostante le rovine e i cambiamenti disordinati. Ma mi rendo conto che è necessario usare la massima cautela con la mia vista. Era la prima volta che Mr. Casebo faceva un discorso di una certa lunghezza. Si esprimeva con precisione, come se gli fosse stato chiesto di fare una dichiarazione pubblica. E l'equilibrata, cantilenante accuratezza del suo discorso, talvolta accompagnata da un movimento del capo, era tanto più evidente se messa a confronto con la sconnessa sciatteria del buon Mr. Brooke. Dorothea si disse che Mr. Casebo era l'uomo più interessante che avesse mai incontrato, senza neppure l'eccezione di Monsieur Liret, il prete valdese che aveva tenuto delle conferenze sulla storia dei valdesi. La ricostruzione di un mondo scomparso, senza dubbio tenendo presenti i fini eccessi della verità, un'opera a cui valeva la pena essere in qualche modo presente, a cui prestare assistenza anche solo reggendo il lume. Questo pensiero esaltante la sollevò al di sopra dell'irritazione, per essere stata presa in giro per la sua ignoranza dell'economia, quella scienza mai spiegata che veniva gettata come uno spegnitoio su tutte le sue certezze. «Ma a voi, Mrs. Brooke, piace cavalcare?» Ben presto Sir James colse l'occasione di dire. «Avrei pensato che vi sareste avventurata un po' nei piaceri della caccia. Vorrei che mi permettesse di mandarvi un cavallo baio, perché lo provaste. È stato addestrato per una donna. Sabato vi ho vista salire la collina al piccolo galoppo su un cavallo indegno di voi. Il mio stagliere vi porterà corridone ogni giorno. Basta che fissiate l'ora». «Grazie, molto gentile. È mia intenzione rinunciare a cavalcare». «Non andrò più a cavallo», disse Dorotea, spinta a questa improvvisa decisione da una certa stizza perché Sir James sollecitava la sua attenzione, mentre ella voleva dedicarla tutta a Mr. Casebo. «No, questa è davvero una crudeltà», fece Sir James con un tono di rimprovero che rivelava un forte interessamento. «Vostra sorella si dà all'automortificazione, vero?» proseguì rivolto a Celia, che sedeva alla sua destra. «Penso di sì», disse Celia, spaventata dall'idea di dire qualcosa che potesse dispiacere alla sorella e arrossendo il più graziosamente possibile al di sopra della collana. «A lei piace imporsi delle rinunce». «Se questo fosse vero, Celia, la mia rinuncia sarebbe autocompiacimento, non automortificazione». «Ma forse ci sono buone ragioni per decidere di non fare ciò che assai gradito», disse Dorotea. Mr. Brooke parlava contemporaneamente, ma era evidente che Mr. Casebo stava osservando Dorotea e che lei ne era consapevole. «Esatto», fece Sir James, «voi rinunciate per qualche scopo elevato e generoso». «A dire il vero, no, non esattamente. Non ho detto questo con riferimento a me», rispose Dorotea vampando. «A differenza di Celia, essa arrossiva di rado, e solo per un piacere o un accesso di ira molto intensi». In questo momento si sentiva adirata verso il perfido Sir James. Perché non prestava attenzione a Celia e a lei non lasciava ascoltare Mr. Casebo? Purché quel dotto parlasse invece di lasciarsi imbonire da Mr. Brooke, il quale proprio allora lo stava informando che la riforma o significava qualcosa oppure no, che lui stesso era protestante fino al midollo, ma che il cattolicesimo era una realtà. E quanto a rifiutare un acro della propria terra per una chiesetta cattolica, tutti gli uomini avevano bisogno del freno della religione che, propriamente parlando, era il timore di un al di là. «Una volta ho studiato molto la teologia», disse Mr. Brooke, come per spiegare la perspicacia appena dimostrata. «Conosco qualcosa di tutte le scuole. Ho conosciuto Wilberforce nel suo momento migliore. Voi conoscete Wilberforce?» «No», disse Mr. Casebo. «Beh, Wilberforce forse non era granché come pensatore, ma se io andassi in Parlamento, come mi è stato chiesto di fare, siederei nei banchi degli indipendenti, come fece Wilberforce, e mi dedicherei alla filantropia». Mr. Casebo fece un inchino e osservò che era un campo vasto. «Sì», fece Mr. Brooke con un disinvolto sorriso, «ma ho dei documenti. È da molto tempo che ho cominciato a raccogliere documenti. È necessario metterli in ordine, ma quando mi ha colpito un dubbio ho scritto a qualcuno e ho ricevuto una risposta. Ho dei documenti alle mie spalle. Ma ecco, voi come disponete i vostri documenti?» «In parte in caselle», disse Mr. Casebo con l'aria piuttosto sorpresa di fare uno sforzo. «Ah, le caselle non vanno bene. Io ho tentato con le caselle, ma tutto vi si mescola. Non so mai se una carta è nell'A o nella Z». «Se mi lasciaste selezionare le vostre carte, zio», fece Dorotea, «le segnerei tutte con delle lettere e poi farei un elenco degli argomenti per ogni lettera». Mr. Casebo approvò sorridendo con aria grave e disse a Mr. Brooke: «Come potete vedere, avete un'eccellente segretaria a portata di mano». «No, no», fece Mr. Brooke scuotendo il capo, «non posso permettere che delle signorine si mischino nei miei documenti. Le signorine sono troppo irresponsabili». Dorotea si sentì ferita. Mr. Casebo avrebbe pensato che lo zio avesse qualche motivo speciale per esprimere una tale opinione, mentre l'osservazione giaceva nella mente di lui, leggera come l'ala spezzata di un insetto in mezzo a tutti gli altri frammenti che vi si trovavano, e solo una corrente casuale l'aveva spinta a posarsi su di lei. Quando le due ragazze furono sole nel salotto, Celia disse: «Che brutto, Mr. Casebo!» «Celia è uno degli uomini dell'aspetto più distinto che abbia mai visto. Assomiglia in modo impressionante al ritratto di Locke, ha le stesse occhiaie infossate». «Locke aveva quelle due verruche bianche ricoperte di peli?» «Ah, oh, Presumo di sì. Quando lo guardava, gente di un certo genere, disse Dorotea scostandosi un po'. Mister Casebo ha un colorito così giallastro. Tanto meglio. Suppongo che tu ammiri un uomo con la carnagione di un cochon de lait. Dodo, esclamò Celia guardando la sorpresa, non ti ho mai sentita fare un paragone simile in precedenza. Perché avrei dovuto farlo prima del momento propizio? È un bel paragone, l'accoppiamento è perfetto. Era chiaro che Miss Brooke si stava comportando in modo poco educato, e così, pensò Celia. Mi chiedo perché mai mostri tanto malumore, Dorotea. È così penoso, Celia, che tu guardi gli esseri umani come se fossero semplicemente degli animali in costume e non veda mai la grande anima nel volto di un uomo. Mister Casebo ha una grande anima? Celia non era priva di un pizzico di ingenua cattiveria. Sì, credo di sì, disse Dorotea con voce piena di risolutezza. Tutto quello che vedo in lui corrisponde al suo pamphlet sulla cosmologia biblica. Parla assai poco, non c'è nessuno con cui possa parlare. Celia pensò dentro di sé. Dorotea disprezza davvero Sir James Chatham. Credo che non lo accetterebbe. Pensò che fosse un peccato. Non si era mai ingannata sull'interesse del baronetto. Talvolta, in effetti, aveva riflettuto che Dodo forse non avrebbe fatto felice un marito che non condividesse il suo modo di vedere le cose, e soffocata in fondo al cuore c'era la sensazione che la sorella fosse troppo religiosa per l'agiatezza familiare. Idee e scrupoli erano come aghi sparsi che instillavano la paura di camminare o di sedersi o addirittura di mangiare. Quando Miss Brooke si trovò seduta al tavolo da tè, Sir James venne a sedersi accanto a lei, perché non aveva sentito nel tono delle sue risposte nulla di offensivo. E come poteva? Pensava che probabilmente Miss Brooke lo trovava simpatico. È un modo di fare, deve essere veramente assai pronunciato, perché una mente piena di preconcetti cessi di interpretarlo come fiducioso o diffidente. Per lui essere assolutamente incantevole, ma naturalmente egli teorizzava un po' il proprio attaccamento. Era fatto di eccellente pasta umana e aveva il merito raro di sapere che le proprie doti, anche se lasciate libere di sbizzarrirsi, non avrebbero incendiato il più modesto fiumiciattolo della contea. Per questo gli piaceva la prospettiva di una moglie a cui potesse dire cosa dobbiamo fare a proposito di questo o di quello, che potesse aiutare con intelligenza il marito a trarsi d'impiccio e avesse anche il requisito di una proprietà terriera per fare ciò. Quanto all'eccessiva religiosità di cui si accusava Miss Brooke, egli aveva un'idea assai vaga di cosa consistesse e pensava che si sarebbe esaurita col matrimonio. Per farla breve, si sentiva innamorato della persona giusta ed era pronto a sopportare una buona dose di supremazia di cui, dopo tutto, un uomo poteva sempre sbarazzarsi quando voleva. Sir James non pensava che avrebbe mai voluto scrollarsi di dosso la supremazia di quella bella ragazza, la cui intelligenza gli procurava tanto piacere. E perché no? La mente di un uomo, quel tanto o quel poco che ce n'è, ha sempre il vantaggio di essere maschile, come la più piccola betulla appartiene a una famiglia superiore alla palma più elevata, e persino l'ignoranza dell'uomo è di un genere più sano. Può darsi che non fosse stato Sir James a esprimere per primo questo giudizio, ma una provvidenza benevola fornisce alla personalità più fiacca un po' di gomma odio amido sotto forma della tradizione. Fatemi sperare che rinuncerete a quella decisione a proposito del cavallo, Miss Brooke, disse l'insistente ammiratore. Vi assicuro, l'equitazione è lo sport più sano. Lo so, fece Dorotea in tono freddo. Penso che farebbe bene a Celia se lei ci si volesse dedicare. Ma voi siete una mazzone così perfetta. Col vostro permesso. Ho fatto assai poca pratica e potrei venire disarcionata facilmente. E allora questa è una ragione per esercitarvi di più. Ogni donna dovrebbe essere una perfetta cavalierizza per poter accompagnare il marito. Vedete come la pensiamo diversamente, Sir James? Io ho deciso che non dovrei essere una perfetta cavalierizza e quindi non corrisponderei mai al vostro ideale di moglie. Dorotea guardava dritta davanti a sé e parlava con una fredda asprezza molto simile nei modi a un bel ragazzo, in divertente contrasto con la sollecita amabilità del proprio ammiratore. Mi piacerebbe sapere il perché di questa crudele decisione. Non è possibile che consideriate l'equitazione una cosa sbagliata. È assai possibile che pensi che sia sbagliata per me. Oh, perché? Fece Sir James con un tenero tono di protesta. Mister Casebo si era avvicinato al tavolo, la tazza di tè in mano e stava ascoltando. Non dobbiamo scrutare con troppa curiosità le motivazioni, disse interponendosi col suo fare misurato. Miss Brooke sa che possono perdere la forza nell'esprimersi. L'aroma si mescola con l'aria comune. Dobbiamo tenere lontano dalla luce il grano che sta germinando. Dorotea arrossì dal piacere e alzò con gratitudine gli occhi verso chi aveva parlato. Ecco un uomo in grado di capire la vita interiore più elevata e col quale ci sarebbe potuta essere una qualche comunione spirituale, anzi, un uomo che avrebbe potuto illuminare i principi con la più ampia conoscenza, un uomo il cui sapere equivaleva a una dimostrazione di qualsiasi cosa credesse. Le deduzioni di Dorotea possono sembrare esagerate, ma in effetti la vita non avrebbe mai potuto continuare in nessuna epoca se non ci fosse stato questo facile accesso alle conclusioni, che ha facilitato il matrimonio contro le opposizioni delle civiltà. Chi mai ha ridotto alle sue minuscole dimensioni la ragnatela della conoscenza prematrimoniale? Certo, disse il bravo Sir James, Miss Brooke non sarà obbligata a esporre ragioni su cui preferirebbe mantenere il silenzio. Sono certo che le sue ragioni le farebbero onore. Non era minimamente geloso dell'interessamento con cui Dorothea aveva alzato gli occhi verso Mr. Casabo. Non gli passava per il capo che una ragazza a cui meditava di fare una proposta di matrimonio potesse provare affetto per un arido topo di biblioteca che andava verso la cinquantina, se non, questo sì, in una certa maniera religiosa, come nei confronti di un prete di una certa distinzione. Tuttavia, dal momento che Miss Brooke si era messa a conversare con Mr. Casabo sul clero valdese, Sir James si rivolse a Celia e chiacchierò con lei della sorella. Parlò di una casa a Londra e chiese se a Miss Brooke piacesse Londra. Senza la sorella vicina, Celia parlò con grande facilità e Sir James si disse che la seconda Miss Brooke era certamente assai simpatica, oltre che carina, anche se non, come altri sostenevano, più intelligente e sensata della sorella maggiore. Aveva il convincimento di aver scelto colei che era superiore sotto ogni aspetto e, naturalmente, a un uomo piace aspettarsi di avere il meglio. Sarebbe il Mavourneen degli scapoli in persona chi fingesse di non aspettarselo. Capitolo 3. Se a Mr. Casabo era veramente accaduto di pensare a Miss Brooke come una moglie adatta, le ragioni che l'avrebbero potuta indurre ad accettarlo essa le aveva già piantate in capo e dentro la sera della giornata successiva quelle ragioni erano germogliate e sbocciate. Infatti al mattino avevano avuto una lunga conversazione mentre Celia, a cui non garbava la compagnia delle verruche e del colorito giallastro di Mr. Casabo, era fuggita fino alla canonica a giocare con gli scalcagnati ma allegri figli del curato. Dorotea oramai aveva guardato profondamente nell'insondata cisterna della mente di Mr. Casabo, vedendovi riflessa in un vago ed esteso labirinto ogni qualità che essa stessa vi proiettava. Gli aveva rivelato assai della propria esperienza e aveva compreso da lui la portata della sua grande opera, anch'essa un piacevole ed esteso labirinto. Perché egli era stato ricco di informazioni, come l'affabile arcangelo di Milton, e con fare simile a quello dell'arcangelo, le disse che si era proposto di mostrare, cosa in effetti già tentata prima, ma non con quell'accuratezza, appropriatezza di paragoni ed efficace disposizione a cui Mr. Casabo mirava, che tutte le mitologie o i frammenti di miti sparsi per il mondo erano corruzioni di una tradizione originariamente rivelata. Una volta occupata la posizione giusta ed essendovisi fermatamente insediato, il vasto campo delle costruzioni mitiche diveniva intellegibile, anzi si illuminava della luce stessa delle corrispondenze. Ma raccogliere questa messe di verità non era opera lieve né rapida, le sue note costituivano già una formidabile schiera di volumi, ma il coronamento del lavoro sarebbe consistito nel condensare questi risultati voluminosi che condividevano ad accumularvisi e ridurli, come la pr prima produzione dei libri di Ippocrate, in modo da entrare in un piccolo scaffale. Nello spiegare questo a Dorotea, Mr. Casabo si espresse quasi come avrebbe fatto con un collega studioso, poiché egli non aveva la padronanza di due stili verbali. È vero che quando usava una frase greco-latina dava sempre la traduzione inglese con cura scrupolosa, ma probabilmente l'avrebbe fatto in ogni caso. Un dotto prelato di provincia è uso considerare i propri conoscenti come lord, cavalieri e altri nobili e degni umani che ben poco sanno di latino. Dorotea fu completamente affascinata dall'ampio respiro di questa concezione. Ecco, qualcosa oltre le secche della letteratura delle scuole per signorine. Ecco un Bossuet redivivo, la cui opera avrebbe conciliato completezza di sapere e devota religiosità. Ecco un moderno Agostino che combinava la fama di dottore e di santo. La santità parve non meno chiaramente spiccata del sapere, poiché quando Dorotea fu spinta a rivelare il proprio pensiero su certi temi di cui non avrebbe potuto parlare a nessuno incontrato in precedenza a Tipton, soprattutto sull'importanza secondaria delle forme degli articoli di fede ecclesiastici rispetto alla religione spirituale, a quel perdersi dell'io nella comunione con la perfezione divina, che le sembrava fosse espresso nei migliori libri cristiani delle epoche più remote, trovò in Mr. Casaubon un ascoltatore che la comprese subito e che poté assicurarla di concordare anche egli col suo punto di vista, una volta debitamente temperato da un saggio conformismo, e fu in grado di citarle esempi tratti dalla storia, a lei in precedenza sconosciuti. Egli la pensa come me, si disse Dorotea, o meglio, pensa a un mondo intero di cui il mio pensiero non è che un povero specchio da 2 soldi, e anche i suoi sentimenti, tutta la sua esperienza, che lago a paragone del mio piccolo stagno. Miss Brooke traeva conclusioni da parte e atteggiamenti con la stessa mancanza di esitazione di altre signorine della sua età. I segni sono piccole cose misurabili, ma le interpretazioni non hanno limiti. E in fanciulle della natura dolce e ardente, ogni segno ha il potere di suscitare meraviglia, speranza, fiducia, vaste come un cielo e colorate da un briciolo diffuso di materia sotto la forma del sapere. Non sempre si ingannano clamorosamente che lo stesso Sinbad può darsi che per buona fortuna sia rimbattuto in una descrizione veritiera e che un ragionamento sbagliato talvolta conduce i poveri mortali a delle conclusioni esatte. Partiti completamente fuori strada e dopo un procedere tutto curve e zigzag, a volte arriviamo proprio nel punto in cui dovremmo trovarci. Anche se Miss Brooke fu precipitosa nella sua fiducia, non per questo si deve concludere che Mr. Casaubon non ne fosse degno. Egli si trattenne un po' più a lungo di quanto si era proposto, dopo l'invito espresso con lieve insistenza da parte di Mr. Brooke, il quale non gli offrì altro allettamento, tranne i propri documenti sulle distruzioni di macchine e gli incendi di pagliai. Mr. Casaubon venne chiamato nella biblioteca per dare un'occhiata a quei documenti tutti ammucchiati, mentre il suo ospite ne prendeva prima uno e poi un altro, da cui leggeva ad alta voce in modo discontinuo e incerto, passando da un brano incompleto a un altro con un sì, già, ma ecco qua, e finendo col metterli tutti da parte per aprire il diario dei suoi viaggi giovanili sul continente. Guardate qui. Qui c'è tutto sulla Grecia, Ramno, le rovine di Ramno. Adesso siete un grande ellenista. Non so se abbiate dedicato molto studio alla topografia. Io ho passato ore interminabili a compilare queste cose. L'elicona, ecco. E ascoltate ora. Partimmo il mattino successivo per il Parnaso. Il Parnaso dalle Due Cime. Tutto questo volume sulla Grecia, sapete, concluse Mr. Brooke, sfregando di traverso il pollice lungo i margini dei fogli, mentre teneva il libro davanti a sé. Mr. Casaubon si comportò da ascoltatore dignitoso, anche se alquanto triste. Si inchinò al momento giusto ed evitò il più possibile di osservare alcun documento, senza rivelare indifferenza o impazienza, consapevole che questa mancanza di metodo era comune alle istituzioni del paese e che colui che se lo tirava dietro in questa faticosa scorribanda mentale non era solo un ospite affabile, ma anche un proprietario terriero e custos rotulorum. Il suo spirito di sopportazione fu anche rafforzato dal pensiero che Mr. Brooke era lo zio di Dorotea. Certo è che egli sembrava sempre più deciso a farla parlare con sé, ad aprirsi con lui, come si disse Celia, e nel guardarla il suo volto spesso si illuminava di un sorriso simile a un pallido sole invernale. Prima di congedarsi, il mattino successivo, mentre faceva una gradevole passeggiata con Miss Brooke lungo il terrapieno ghiaccioso, le aveva detto di avvertire lo svantaggio della solitudine, il bisogno di quell'allegra compagnia con cui la presenza della giovinezza può alleviare o rendere varie le gravose fatiche della maturità. E pronunciò questa dichiarazione con l'accurata precisione di un inviato diplomatico le cui parole sarebbero state accompagnate da dei risultati. Infatti, Mr. Casaubon non era solito aspettarsi di dover ripetere o correggere le proprie comunicazioni di carattere pratico o personale. Pensava che per alludere alle propensioni che aveva deliberatamente espresse il 2 di ottobre, bastasse fare riferimento a quella data, prendendo così a criterio la propria memoria, che era un volume dove un vide sopra poteva evitargli di ripetersi, e non l'ordinario blocchetto di carta assorbente a lungo usato in cui si parla solo di scritti dimenticati. Ma in questo caso la fiducia di Mr. Casaubon non era probabile che andasse delusa, perché Dorotea udì e conservò la memoria di ciò che egli disse col bramoso interesse di una giovane natura inesperta, per la quale ogni sorta di esperienza segna un'epoca.